E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di chiaramente anche delle anticipazioni che stanno uscendo sulla manovra economico-finanziaria e parleremo anche e soprattutto del rapporto annuale del Censis. Il Censis è complementare all'Istat, nel senso che l'Istat lavora con la statistica e fornisce dati prevalentemente statistici. Il Censis va su quelle che si chiamano analisi più qualitative, cerca di cogliere anche gli umori più sottili, più delle volte epidemici del paese, ma che nascondono poi cambiamenti di lungo e medio periodo. Perché lo dico? Perché oggi è uscito il rapporto annuale del Censis, che ha sempre queste derite, bravissimo nel sintetizzare, a mio avviso, un paese con delle definizioni un po' immaginifiche, ma molto, molto forti, ma molto pregnanti. E parla il Censis di un paese disposto a fare sacrifici, 6 italiani su 10, ma un paese eterodiretto, quindi smarrito, che viene diretto dall'esterno, smarrito, dove c'è una classe politica che ha una sudditanza, quindi intellettuale, nei confronti della finanza e dell'economia, no? Fragile, isolata ed eterodiretta, questa è l'Italia fotografata dal Censis nel rapporto 2011. La dialettica politica, cito testualmente, prigioniera del primato dei poteri finanziari, però appunto anche un paese pronto a fare sacrifici. Sul tema del sacrificio, una brevissima nota: sacrificio deriva da sacro e significa rendere sacro un atto, non è solo un qualcosa di negativo il sacrificio. Siamo noi che dopo 20 anni di espansione, di crescita illimitata, ritenevamo che il sacrificio fosse solo negativo. Il sacrificio è un'accezione anche molto positiva. È rendere sacro quello che stai facendo, che tu ti sacrifichi per tuo figlio, per il tuo lavoro, per una missione, per la tua famiglia, rendi sacro quest'atto. Chiudo questa leggerissima e inaccettabile paternale e vado avanti con la giornata economico-finanziaria. La borsa va bene, più 1,40%, Monte dei Paschi più 8%, Popolare Emilia Romagna più 6,90%, Atlantia più 4,80%, Intesa San Paolo più 4%, qui ci sono temi anche europei di cui parleremo subito in apertura. E dicevo, il rapporto Censis sarà anche l'occasione oggi per cercare di capire come si esce da questa crisi, una volta tanto non ascoltando e ragionandone solo con economisti, uomini di finanza, politici. Questo lo facciamo tutti i giorni da mesi, da 2 anni ormai. Oggi vorremmo farlo con chi studia appunto la società, pur sapendo che da questa crisi in primo luogo ne esci con misure tecniche, il ruolo della banca centrale, il controllo del debito pubblico, la riduzione della spesa corrente, e possiamo andare avanti per un'ora, ma poi devi dare anche una prospettiva a quello che la politica in Italia, ma anche nel resto d'Europa, non riesce a dare una prospettiva all'Europa, non riesce a dare una prospettiva alla Francia. Cioè, ci siamo tutti concentrati sulla gestione della crisi, su come sopravvivere. Benissimo, una volta che sei sopravvissuto, devi anche pensare a come vivere nel futuro. Ecco, questo sarà un po' il tema di oggi, a cavallo tra economia e sociologia, ma chi conosce le due materie sa che la sociologia era inizialmente una disciplina di carattere economico. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Volete sapere se c'è solidarietà verso Oscar Giannino? Guardate, io di quei cretini lì non parlo, cioè, questo è un programma in cui riceviamo insulti, facciamo qualunque cosa, diamo la parola a tutti, ma quattro deficienti che si mettono a tirare uova, Oscar, Giannino, forse dovrebbero tornare nelle aule, ma forse dovrebbero neanche andarci nelle aule. Non, più ne parli, più questi si esaltano. Ignorarli, li distruggi se li ignori. E comunque vai avanti così, Oscar, che c'è bisogno di pensieri liberi, anche se magari non condivisi ogni tanto dal sottoscritto, ma liberi sicuramente. Dicevamo della borsa, più 8% in Monte dei Paschi, molto bene in Emilia Romagna, più 6,90 intesa come banca, e Atlantia più 4,90. Chi perde oggi in borsa? Dia Sorin meno 2,70, l'automatica meno 1,5, Finmeccanica meno 1,3, Enel meno 1,14, Campari meno 0,70 come Toz, euro su dollaro 1,3388. Le altre borse, Milano la migliore oggi assieme a Londra, Londra più 1,20, l'America guadagna 0,5, la Francia 0,80, la Germania 0,5% anch'essa. Petrolio, leggero rialzo, ma 100,78 dollari, in calo invece l'oro, però siamo sempre 1738 dollari l'oncia. E poi le ipotesi che stanno mantenendo comunque positive le borse europee, un'ipotesi di aiuti del Fondo Monetario Europeo alle banche, o meglio, il Fondo Monetario Europeo attraverso le banche centrali europee potrebbe erogare prestiti e aiuti alle banche europee fino a un massimo di 200 miliardi. Le dichiarazioni di Angela Merkel, che ha detto che l'Europa è vicina a un'unione fiscale, scusatemi il lapsus, e poi non vogliamo spaccare l'Europa. E poi Angela Merkel, il futuro dell'euro è inseparabile dal futuro dell'Unione Europea, di nuovo contraria alle obbligazioni di stampo europeo, cioè all'Europa, all'area euro, che emette un debito unico, non un debito di singoli paesi, gli euro bond, non sono un contributo alla soluzione, però poi ha detto non vogliamo spaccare l'Europa, la Germania non può essere accusata di spaccare l'Europa, un po' di colla di paglia ce l'ha Angela Merkel su questo. Germania che ha sempre perso le guerre e ha sempre vinto le paci, come dice il mitico Giulio Sapelli, che aleggia sopra di noi. La Merkel è anche ottimista sulla soluzione della crisi. È assurdo pensare che la Germania voglia dominare l'Europa adesso. Nessuno vuole attaccare i tedeschi hanno anche ragione, l'abbiamo detto molte volte, quando temono che un fondo, anzi una banca centrale europea che garantisca in ultima istanza i debiti dei paesi, può diventare il dolce veleno per i portoghesi, gli irlandesi, gli spagnoli, i greci, gli italiani, per tornare a fare debito, tanto paga Pantalone, cioè paga la banca centrale europea, cioè pagano i tedeschi. Hanno ragione ad avere questa paura, basta mettere dei paletti. Però detto questo, insomma, che Angela Merkel dica è assurdo pensare che la Germania voglia dominare l'Europa dopo che ha dettato l'agenda politica dell'Europa nell'ultimo anno. Andiamo bene, proprio bene. C'eravamo anche noi qua a raccontare le decine di no di Angela Merkel a qualunque tentativo di salvataggio della Grecia prima che tutto crollasse. Vabbè, lo spread italiano, va a 400, scende a 440 punti, è ancora un livello altissimo, certo che è meglio dei 500 punti di inizio settimana. Il governo, per quello che riguarda la manovra politica economica che verrà presentata lunedì, viene domani, convocherà le parti sociali, soprattutto domenica mattina a Palazzo Chigi alle 9:30. Anche qui rida di voci, si valuta l'aumento di aliquote al 41/43% sull'aliquote IRPEF, una tassa sul posto barca nei porti turistici, una legge delega per la revisione degli estimi catastali e quindi non una rivalutazione immediata del 15%, che è l'ipotesi che abbiamo letto nei giorni scorsi. E poi un appoggio al governo Monti è arrivato anche da Sergio Marchionne, che era oggi a Bruxelles. Sergio Marchionne che però vota in Svizzera, penso, perché ha la residenza svizzera, per cui un appoggio estero al governo Marchionne. Sentiamo Marchionne. L'ho ripetuto quando ero a Washington 2 giorni fa e confermo il sostegno assoluto a quello che sta facendo il presidente Monti. È un impegno serio, la persona che conosco, continuo a ripetere che è probabilmente l'unica persona che in questo momento ha la credibilità internazionale per chiudere il cerchio con i mercati finanziari internazionali e darci quel sostegno di cui abbiamo bisogno a livello internazionale. Giudicare il suo operato è prematuro, perché ovviamente non ho i dettagli, ma poi bisogna anche avere fiducia nella sua saggezza, nella sua esperienza. Credo che farà le cose bene, quindi avrà il sostegno mio della FIA per quanto sia necessario. E poi anche la vicenda di Fiat torneremo a parlare, sì, perché ieri i dati sulle immatricolazioni comunque hanno confermato una Fiat che va peggio della media del mercato. Però andiamo avanti su altre notizie in breve. Compra vendite immobiliari, fortissimo calo nel secondo trimestre, meno 3,2%, calano anche i mutui, crollano i mutui nel secondo trimestre, non il valore, il numero di mutui contratti o accesi, per meglio dire, meno 8,1%, una brusca inversione di tendenza, perché nel primo trimestre c'era stato un piccolo aumento dei mutui. Allora la Confesercenti, poi andiamo subito sul primo tema, che è un tema che riguarda i buchi non di bilancio, ma i buchi, che sarebbe meglio dire le buche, delle strade italiane. Avevo annunciato ieri, però vorrei ricordare anche un rapporto di adesso della Confesercenti, uscito poche ore fa, proprio sulle feste natalizie, sulle spese sulle feste natalizie. Perché? Perché la Confesercenti con la SVG ha fatto un sondaggio, insomma, prudenza ancora maggiore nelle spese degli italiani rispetto agli ultimi anni. Quasi 2 italiani su 3, il 64%, spenderanno meno per le feste di Natale. La tredicesima sarà utilizzata per il 36% per le spese di casa e famiglia, un quarto della tredicesima, quindi 25%, verrà destinato al risparmio, il 20% servirà a saldare i conti in sospeso e il 7% a pagare il mutuo. Natale magro, non il cappone, ma il Natale deve essere magro, ma non per tutti. Per esempio per chi? Per Pierfrancesco Corguaglini, che noi abbiamo sempre stimato come manager. Ma avrà un Natale bello, perché 5 milioni e mezzo di euro lordi, 4 milioni adesso e 1,5 milioni tra un anno, per lasciare Finmeccanica, che è travolta dai debiti, travolta dall'inchiesta della magistratura, che hanno purtroppo coinvolto anche la stessa persona di Pierfrancesco Corguaglini e sua moglie Marina Grossi alla Selex. Allora, finché un'azienda è privata, vabbè, i privati, gli azionisti ne rispondono loro. Ma la Finmeccanica è partecipata dallo Stato e dal Tesoro, e i soldi ce li mettiamo noi. 5 milioni e mezzo? Andiamo bene, proprio bene. E poi Natale magro anche per i nostri parlamentari. Oh, come hanno aumentato i prezzi, poi capirai. Sono aumentati, triplicati i prezzi. Cioè, il filetto di orata in crosta di patate da 5,20 euro a 15 euro, ragazzi, è quello che paghiamo tutti noi, ma andando a mangiare in trattorie proprio economiche. Il carpaccio di filetto con salsa limone è passato alla camera da 2,76 euro, pensate un po', a 7,50 euro, e sono mazzate, e alla fine praticamente con 45 euro riesce a pagare e a mangiare solo il primo e il secondo e non per un'intera settimana. Beh, il numero di pasti della Camera Sì, è crollato il 70% in meno. Sta a vedere che mangiano il panino al bar. E nel frattempo parliamo di buchi e di buche, non appunto i buchi di bilancio, perché è un problema di sicurezza stradale, ma soprattutto di mancati investimenti. I numeri fanno impressione. Buca! Sasso! Buca! Ehi! Insomma, lei come si chiama? Lei chi? La mia ragazza? Ma no, lei! Ah, io! Voi allora! Sono 10 anni che in Italia usiamo il voi e ancora non lo sapete? Buca con acqua! Eh sì, era il federale Luciano Salce nel 61, buca con acqua, buca con fango, molti di voi lo ricorderanno. Qui il tema invece è serissimo: i lavori di costruzione e manutenzione delle strade italiane sono ai minimi degli ultimi 20 anni. Per mantenere in sicurezza i 460.000 chilometri di strade italiane, lasciando stare quindi i 6.000 chilometri di autostrade, servirebbero 40 milioni di tonnellate di asfalto, ma quest'anno ne arriveranno solo 27 milioni, un terzo, cioè il 30% meno del necessario. Il settore è in forte crisi, su 650 impianti di produzione di asfalto operanti in Italia, 150 sono fermi e 15.000 addetti su 50.000 sono già in cassa integrazione. Le cause come immaginabile sono da rinvenirsi nei mancati investimenti, ma anche non solo gli investimenti pubblici, c'è anche qualcosa che riguarda i ritardi nei pagamenti alle imprese. Carlo Giavarini è il presidente di SITEB, che è l'associazione italiana bitume e asfalto stradale. Praticamente i 2/3 delle 4.000 aziende del settore vi aderiscono. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, dicevamo pochi investimenti, ma anche la cosa più fastidiosa non sono i mancati investimenti, ma i mancati pagamenti su investimenti già fatti, cioè il ritardo nei pagamenti. A quanto ammontano? Si stanno allungando sempre di più e quindi si va da un minimo di un 90 giorni dopo la scadenza, non dal momento della fattura, si arriva fino a un anno, addirittura 2 anni. Certi contratti già dicono che li pagheranno nel 2013 o 2014, quindi è il più grande problema che oltre a tutti hanno le nostre aziende. Per cui lei mi sta dicendo che non è solo il taglio netto fatto sugli investimenti infrastrutturali in questi anni, ne abbiamo parlato molte volte anche con l'ANCE, e quindi i soldi arrivano al CIPE ma dal CIPE non si sbloccano, ma è anche il pagamento di investimenti obiettivamente già fatti, già cantierati, già realizzati, ho capito bene? Assolutamente sì, io non, senza far nomi, per esempio, so benissimo la realtà di alcune nostre aziende, per esempio ce n'è una che diciamo che non è andata malissimo perché ha perso il 20% dei lavori nell'ultimo anno, quindi rispetto alle altre, però su 30 milioni di fatturato c'ha 10 milioni fuori, perciò certe aziende che anche hanno un bilancio bellissimo, perfetto, senza problemi, però rischiano di fallire o di non riuscire ad andare avanti perché non hanno liquidità. Le banche dall'altra parte hanno stretto molti crediti e quindi la situazione è piuttosto difficile. C'è però su questo una dichiarazione del neoministro Corrado Passera che recependo una richiesta che arriva dal mondo delle imprese, infatti la presidente di Confindustria Marcegaglia si è detta assolutamente favorevole, ha proposto di pagare la montagna di debiti arretrati, perché non ci siete solo voi, complessivamente la pubblica amministrazione, quindi lo Stato, ha nei confronti delle imprese quasi 90 miliardi di euro di debiti arretrati, cioè di cose che vanno pagate per servizi o macchinari o beni già resi, di pagare, dicevo, con titoli di Stato. La convince questa ipotesi? Fino a un certo punto, perché bisogna vedere quant'è la scadenza e bisogna vedere se sono cedibili questi buoni, perché la necessità, il bisogno di liquidità è una cosa immediata, quindi in alcuni casi magari se la scadenza oppure il tempo che passa prima che uno li possa vendere equivale i ritardi di pagamenti, forse, ma se la scadenza va oltre, non so se si cade dalla padella alle braccia, ecco, adesso bisognerebbe sapere bene. Sì, no, io immagino però che in questo modo migliori anche la vostra posizione creditizia nei confronti delle banche, perché se lei dice io però ho ricevuto, poniamo su 10 milioni di euro che dovevo avere dallo Stato, ne ho ricevuti 10 milioni sotto forma di obbligazioni, voglio dire, se poi salta per aria tutto, non stiamo neanche a ragionare di pagamenti, però se tutto tiene, il merito di credito dovrebbe migliorare, no? No, no, indubbiamente, in una situazione del genere qualsiasi iniziativa, infatti noi speriamo molto nel Ministro, perché dalle prime dichiarazioni che ha fatto ha dimostrato di capire perfettamente come stanno le cose, e quindi noi abbiamo grandi speranze, perché la situazione è piuttosto drammatica. Perché... Ecco, qui c'è un altro elemento che non è solo strettamente economico, che è il tema della sicurezza. Nel chiudere, io ho capito benissimo i vostri problemi, i dati sulle aziende e sui cassi integrati, cioè su praticamente 15.000 addetti su 50.000 già in cassa integrazione, sono drammatici. Su 650 impianti, lo ripeto, di produzione di asfalto, 150 sono fermi. Qui però c'è anche il tema della sicurezza stradale. È il fattore su cui puntiamo, perché la gente è più sensibile, ma la cosa è drammatica, lei ha citato i dati, siamo passati in pochi anni da 44 milioni di produzione di conglomerato asfaltico a 29, quest'anno saremo sui 27, la Francia invece è passata da 40 a 39. La nostra situazione è abbastanza anche anomala da questo punto di vista, ed è drammatica, perché non produrre conglomerato vuol dire non fare manutenzione, in quanto la grande maggioranza del conglomerato bituminoso che viene prodotto serve per la manutenzione, perché come lei vede e sa, non è che si fanno delle strade nuove. Ecco, non so, no, però ci poteva essere anche in precedenza, non voglio andare sul tema delle tangenti o degli appalti eccessivamente gonfiati, ma mettiamola così, un eccesso di costo dovuto anche forse a una certa leggerezza negli appalti o no? Cioè, guardi, questa riduzione avviene tutta sull'osso oppure c'era un po' di ciccia da... No, questo discorso che chiamiamo buche, io ho fatto anche un articolo, è un discorso complesso, cioè i fattori che entrano sono tre. Cioè, prima il sistema della aggiudicazione degli appalti che viene fatto in Italia, su cui noi abbiamo molto da dire, diciamo, questo discorso del massimo ribasso porta a fare delle offerte proprio all'osso o sotto l'osso. Poi c'è il discorso dell'amministrazione che li gestisce e poi c'è il discorso delle imprese. È chiaro che capita in certi casi che quando uno è costretto a finire un lavoro in certe condizioni con un costo del lavoro eccessivamente basso, deve in qualche modo uscirne fuori, diciamo tra virgolette, deve arrangiarsi, quindi non sono le nostre aziende eccetera, però no, no, però non possiamo legittimare, diciamo, un rigonfiamento del costo dell'opera, oppure l'opera che costa più di quanto non previsto inizialmente, perché uno deve comunque arrangiarsi, cioè occorre che l'opera costi quello che deve costare, sembra una banalità, ma spesso non è così, o no Giovarini? Noi quello che chiediamo è un maggior controllo. Se uno esegue dei controlli sui lavori, queste cose non succedono. In Francia i ribassi non raggiungono dei livelli come da noi, che possono essere anche del 50%, ma appena raggiungono, che ne so, il 15%, che è già una cifra là enorme, la mattina dopo che fa il lavoro si trova 15 signori che stanno là, se non 15, insomma 3 o 4 signori, che stanno là a controllare come fa il lavoro. Quindi questo qui, la seconda volta, il massimo ribasso a quel livello non lo fa più, e presenta una richiesta abbastanza, diciamo, giusta. Vabbè, in bocca al lupo a lei, ma soprattutto ai 50.000 addetti diretti nel settore, sono mezzo milione con l'indotto. Grazie al presidente dell'Associazione Italiana Bitume e Asfalto Stradale, Carlo Giovarini. Grazie. Sì, vedo molti messaggi al 349-238-6666. Sì, ci sono le sovraffatturazioni, i prezzi gonfiati e quant'altro, va bene, però attenzione che al di là di questo, con un comportamento che è illegale, è un reato, però c'è anche un taglio, e lo ripetiamo, non solo di investimenti per la manutenzione stradale, ma anche di pagamenti di opere già avviate, già concluse, comunque cantierate. E il problema che molti di voi sottolineano, alcuni sono anche amministratori di comuni, leggo messaggi vari che dicono ho comuni in attivo di bilancio ma non posso riparare i buchi delle strade perché c'è il patto di stabilità, non posso toccare i miei soldi. Sappiamo. Vedo che il tema delle buche, intese come buche delle strade, affascina per modo di dire molto gli ascoltatori al 349-238-6666. Alcuni fanno notare che in Francia comunque i lavori costano meno, o meglio c'è meno scarto tra il costo previsto dall'appalto e poi il costo definitivo dell'opera, e l'abbiamo detto, ma anche, scrive un ascoltatore che dice di essere del settore, i lavori sono sempre fatti male e quindi di conseguenza le buche. Sì, questo è un problema di controlli, però abbiate pazienza, non di stanziamenti. La borsa, dicevo, Milano la migliore, più 1,5%. E qui c'è l'impatto della Merkel, mettiamola così, perché oggi lei, l'abbiamo raccontato, il cancelliere tedesco ha chiarito che la Germania non può essere accusata di spaccare l'Europa, è assurdo pensare che la Germania voglia dominare, l'Europa è vicina a un'unione fiscale, è in agenda, ha detto la cancelliera tedesca, che però ha di nuovo bocciato gli eurobond. Buona la reazione comunque delle borse, a partire dai titoli bancari, che ormai sono il termometro della crisi. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Banche. Sì, esattamente, le banche oggi hanno beneficiato proprio di questa aspettativa. Angela Merkel ha detto anche che ha confermato ufficialmente che il 9 dicembre si arriverà con l'intenzione di cambiare i trattati europei, e quindi i mercati stanno iniziando a sperare sempre di più su una possibile soluzione politica, almeno dal punto di vista politico, che poi apra la strada di interventi concreti per la soluzione della crisi del debito. Le banche ne hanno approfittato anche grazie agli spread, che pur in leggera risalita rimangono su quota 450 punti, lo spread tra BTP e Bund, quindi a Piazza Affari, e sono proprio le banche che si sono messe in luce a partire dal Monte dei Paschi di Siena, e più 8,7%, seguita dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna e via via tutte le altre. Tra le big, Intesa San Paolo ha guadagnato il 4,6% e Unicredit il 3%. Cresce anche l'attesa per le nuove stime che saranno fornite dall'autorità bancaria europea sulle necessità di capitale e per le banche, e se la nuova riunione si terrà tra il 7 e l'8 dicembre, quindi anche questa la prossima settimana, le attese sono per una revisione al ribasso delle stime annunciate qualche settimana fa, che avevano penalizzato molte istituti, soprattutto quegli italiani, che infatti avevano protestato anche a livello di ABI. Sì, e poi non tutte crescono nello stesso modo. Una nota, io ho detto che il film Il Federale, quello che abbiamo usato per il tema delle buche stradali, è di Luciano Salci, è il regista, Tognazzi era la voce che sentivate. Chiudo perché giustamente gli ascoltatori puntualizzano, mettiamola così. Monte dei Paschi più 8,70%, Popolare Emilia Romagna più 5,40%, Fondiaria più 5%, Intesa più 4,60%, Banco Popolare più 3,20%, Unicredit più 3%, Mediobanca più 2,70% come UbiBanca. Allora, tutte positive, spicca però il Monte dei Paschi, che è comunque reduce dall'annuncio dell'aumento di capitale. Sì, esattamente, il Monte dei Paschi era l'istituto su cui si concentravano i timori, su necessità di ricapitalizzazione, ha annunciato alcune operazioni come l'aumento di capitale gratuito e la conversione dei titoli di risparmio, inoltre le prime indiscrezioni su quelle che potranno essere gli interventi del governo per sostenere ancora il settore bancario, ad esempio con un ruolo maggiore della Cassa Depositi e Prestiti come garante finale. Diciamo che ha rassicurato i mercati sul fatto che comunque il sistema Italia difenderà le banche, in particolare il Monte dei Paschi, che era quella su cui si concentravano appunto le preoccupazioni. E allora, Finmeccanica, dopo l'uscita di Guarguaglini, aveva recuperato in questi giorni, non tutto, ma insomma era positiva da alcune giornate, oggi invece perde. Sì, esattamente, è il classico esempio del mercato che compra in attesa della notizia e poi vende quando la notizia arriva. Negli ultimi giorni, proprio in vista del CDA decisivo e di ieri, il titolo aveva guadagnato molto terreno. Oggi e ieri appunto è arrivata la notizia dell'uscita di Guarguaglini e del conferimento anche delle deleghe di presidente all'attuale amministratore delegato Giuseppe Orsi, una soluzione che a livello politico e anche sul mercato viene vista positivamente, perché comunque rimane alla guida colui che già aveva in mano le leve, quindi insomma non ci saranno intoppi dal punto di vista della gestione del business. Oggi il titolo ha chiuso questo lo vedremo, ce l'auguriamo al momento, quindi certo. Soffre il titolo invece, ma si tratta fondamentalmente di realizzi dopo i guadagni. Non soffre Guarguaglini, perché come ricordavamo in apertura di programma 5,5 milioni di buona uscita, e non avrà problemi di spese natalizie, come invece dice la Confesercenti avranno la maggior parte degli italiani. Diasorin meno 3,30%, l'automatica meno 1,30%. Su Diasorin c'è notizia. Su The Astronomy c'è un giudizio di una banca d'affari. No, che non la voglio sapere. Non la vuoi sapere, ma secondo gli operatori è questo che oggi ha influito sul titolo. Allora, Enel meno 1%, Campari meno 0,77%, e i migliori peggiori in assoluto, Cogeme più 26,90, MonoTV più 22,30, c'è qualcosa su MonoTV 22,30? No? Ma oggi il titolo è stato, ricordiamo che comunque MondoTV e anche la controllante Mondoma avevano, sì, sono sempre molto volatili. Oggi proprio su MondoTV ha annunciato che deve aver avviato la produzione di una serie di cartoni animati in tre dimensioni basato sul classico della letteratura L'Isola del, sì, tesoro, quindi un nuovo prodotto di mercato, cioè di prodotto. E invece Fiat per le vendite, Chrysler, a dimostrazione che il mercato guarda sempre più a Fiat come americana, più 45% negli Stati Uniti. Da noi invece Fiat è nata male, le immatricolazioni sono più basse della media del mercato. Fiat guadagna il 2,60%, Exor il 2,36%. Grazie Paolo Paronetto e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buon fine settimana a voi. E adesso, come dicevo, cerchiamo di raccontare questa crisi e soprattutto lo sbocco da questa crisi, dove andremo, cosa diventeremo, non con gli economisti e con i finanzieri e con i politici, ma con chi guarda con l'occhio sociologico il paese. Oggi rapporto Censis, dicevo, italiani pronti ai sacrifici per il paese, ma una società fragile, isolata ed eterodiretta, diretta dall'esterno, con una dialettica politica prigioniera del primato dei poteri finanziari. Così ci vede il Censis nel 45esimo rapporto, il presidente Giuseppe De Rita, al microfono la nostra Alessandra Schepisi. Abbiamo due fatti fondamentali: siamo isolati ed eterodiretti. Isolati perché negli ultimi 3-4 anni non siamo stati più nei circuiti fondamentali del mondo, perché a livello di Europa si estraniavamo sempre di più, perché sul Mediterraneo contavamo sempre di meno. E l'isolamento è quello che ci porta poi all'eterodirezione, perché se sei isolato gli altri decidono per te. Devi appartenere a un circuito per contrattare e pensare di contare. Qui noi siamo rimasti fuori. Questo non può non rendere fragile un popolo, non può rendere un popolo in qualche modo vergognoso, e questo naturalmente crea quella forma di sottovalutazione, di cattiva reputazione di noi stessi che abbiamo coltivato negli ultimi anni. Lei ha indicato 5 punti fondamentali per uscire dalla crisi. L'Italia d'oggi ha bisogno di restare ancorata a 5 punti fondamentali che non vanno molto di moda, ma che sono a mio avviso l'unica cosa che può permettere non solo la solidità ma anche il rilancio. Primo, attaccarsi alla nostra economia reale, mai troppa finanza e più economia reale. Secondo, attaccarsi alla logica della lunga durata, fare discorsi di tempi lunghi, non di cose ad horas, perché sennò restiamo tutti angosciati dagli eventi delle ore e nessuno riesce a capire cosa succede, non dico il mese prossimo, ma anche la settimana prossima. Legarsi ai conflitti reali che ci sono nel paese, perché ci sono, non sono soltanto quelli degli indignatos o del nord e sud. Quarto, sviluppare quelle molte attività di nuova relazionalità, che sono dalle forme di spiritualità alle realtà sociale, informatico e telematico, e che quindi sono totalmente nuove. Quinto, ritornare a rappresentare la rappresentanza. Queste 5 cose, secondo me, sono comunque necessarie qualsiasi cosa succeda. E allora, proprio per seguire il ragionamento di Giuseppe De Rita, non parlare sempre ad horas, momento per momento, ma cercare di dare una prospettiva, cerchiamo di capire come e dove va questa società italiana durante la crisi. Fragili, isolati e eterodiretti, ossia diretti dall'esterno. Ma anche disponibili ai sacrifici, quasi 6 su 10. Stiamo parlando degli italiani, come alcuni di voi che hanno seguito la prima parte del programma avranno già capito. Il rapporto Censis di oggi l'abbiamo già commentato con il presidente De Rita e col direttore generale Roma, ma ma vorrei tornare a una visione, se mi permettete, un giorno, una volta tanto, non puramente finanziaria, di politiche economiche, di macroeconomia, di spread, di debito, di tassi, di BTP. È chiaro a tutti che da questa crisi si esce in primo luogo con le soluzioni tecniche, tecnocratiche, europee, con l'accordo tra i paesi, con una politica fiscale unica, con la Banca Centrale Europea che fa la banca centrale, lo abbiamo detto decine di volte in questi mesi. Ma mi sembra anche chiaro, e prendo appunto spunto dal Censis, che da questa crisi si deve uscire anche con un nuovo modello di paese, un nuovo modello di futuro. Non basta dire tirate la cinghia, stringete, sebbene il Censis fotografi appunto 6 italiani su 10 pronti a sacrifici per il paese, i sacrifici nella vita li devi fare per qualcosa. Professor Mauro Magatti, lei è preside della Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano. Buonasera innanzitutto. Sì, buonasera. Allora, professore, per quello che... intanto vorrei subito un commento sul Censis, però avrete capito, non è un economista. I nostri ospiti quando vengono all'Accademia sono al 95% economisti, qualche giuslavorista, qualche storico dell'economia, questa volta addirittura un sociologo, perché vorrei provare a respirare oggi rispetto alla cronaca continua, all'ansia da spread, allo spread test e quant'altro, e vorrei capire dove e come ne usciamo complessivamente dati, al di là delle soluzioni tecniche. Un primo commento però sul Censis. Siamo disposti ai sacrifici, ma siamo eterodiretti, fragili come società, isolati, una dialettica politica prigioniera del primato dei poteri finanziari. Sembra quasi un commento all'ultimo governo Monti. È d'accordo? Ma il paese è sempre molto realista in genere, l'uomo della strada, seppur confuso e disorientato, riesce a cogliere qualche volta più degli analisti le questioni. Tutti noi abbiamo, il cittadino normale ormai si è reso conto che le cose sono cambiate e che il futuro fatto di luccichini e divertimenti è dietro le spalle e che bisogna voltare pagina e rimboccarsi le maniche. Mi sembra un'analisi che respiriamo tutti intorno a noi. Quindi tutto sommato la condivide. Tra l'altro, prigioniera del primato dei poteri finanziari, lì potremmo anche ragionare. Allora, partiamo da qui. Partiamo da come si è arrivati a una politica prigioniera del primato. De Rita non dice prigioniera dei poteri finanziari, dice prigioniera del primato, quasi intellettuale, dei poteri finanziari. È una politica in sudditanza. Io ho detto che la politica si è autosospesa in Italia, come uno che si autodesse il cartellino di espulsione a un certo momento. Lei è d'accordo che c'è una politica prigioniera intellettualmente, culturalmente, del primato dei poteri finanziari? No, io penso che ciò che è accaduto è che la politica, in particolare in Italia, anche se la questione non è solo italiana, non è stata capace di trasformarsi rispetto ai tempi, è rimasta indietro, e da questo punto di vista, per i demeriti della politica, la politica ha finito per cadere in balia appunto di visioni tecnico-finanziarie che in questo momento sono assolutamente strutturali. Diciamo così che uno dei vettori centrali della trasformazione degli ultimi decenni è che abbiamo costruito un sistema tecnico, di cui quello finanziario è un pezzo fondamentale, che ha una spazialità globale. Il sistema tecnico finanziario si muove su scala globale, gli stati nazionali sono territoriali e quindi la politica è semplicemente rimasta indietro. Però lei dice, insomma, se la politica adotta tecniche, tecnicismi finanziari, nella vita uno sceglie l'originale, e allora sceglie la finanza e i tecnici della finanza. Se non ha la politica politicien, come dicono i francesi, cioè che fa vera politica, che dà visione, che dà scenario, che dà obiettivi, e non solo dice siamo in crisi oppure non siamo in crisi e poi si scopre che siamo in crisi, o ti dice solo siamo in crisi, bisogna stringere la cinghia. Ma dopo 25 anni, perché a me la sociologia piace rispetto all'economia, perché si occupa di fenomeni anche più deboli apparentemente, ma di lunga durata, mentre l'economia ha fenomeni più forti ma spesso molto ciclici. Dopo 25 anni, diciamo datando con fine anni 80 il grande boom economico, il Thatcher, Reagan Economics, il modello thatcheriano, poi per gli anni 90, 2000, la net economy, la borsa continuava a salire, gli italiani e non solo che lasciano le botte, comprano azioni, fino al 2007. Come ci ritroviamo dopo 25 anni di questa oggettivamente forte, fortissima espansione economica? Sì, è un aspetto che viene curiosamente dal mio punto di vista tenuto celato nel dibattito pubblico di oggi. L'Occidente è stato il grande protagonista di questa espansione, i paesi anglosassoni con i loro alleati, e dopo 25 anni l'Occidente si ritrova prima di tutto con una massa di debiti sulle spalle gigantesca, quasi che la crescita invece di produrre, come dire, ricchezza abbia prodotto indebitamento. E poi ci ritroviamo invecchiati perché la vita media si è allungata, ma anche perché la nostra capacità di mettere al mondo figli è diminuita e quindi con un carico demografico molto maggiore, e poi anche tendenzialmente, come ci dicono molte ricerche, ma anche il consumo di psicofarmaci, un po' depressi e un po' infelici. Allora, infelici, indebitati e invecchiati, queste le tre I che ci ricordava prima del GR il preside della facoltà di sociologia all'Università Cattolica di Milano, Magatti. Sì, alcuni dicono, beh, c'erano le tre I di una volta della campagna di Berlusconi, c'erano altre tre I, altri scrivono c'è una quarta E, inca, e non posso dirla. Allora, lei dice, professore, che come nel caso mi è piaciuto molto l'esempio della malattia, ok, un conto è curare un infarto, un'altra malattia nel momento, però poi devi cambiare dopo che ti sei curato lo stile di vita, se no resti a rischio. Allora, qual è lo stile di vita che, per usare il suo esempio, noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni e come lo dobbiamo cambiare? Ma come dicevamo prima, sono stati 25 anni di espansione, questa mi sembra una parola centrale. Sì, sì, di crescita economica. Sono diventati più grandi i nostri orizzonti, siamo diventati più veloci, possiamo comunicare infinitamente di più. È stata una crescita sicuramente di tipo quantitativo più che qualitativo. E anche economico, anche nel portafoglio, diciamo. Anche nel portafoglio, sì, sì, sì. Naturalmente, come dire, noi non possiamo più come Occidente, questo secondo me è molto chiaro se si guarda i dati della crisi, non possiamo più immaginare di tornare rapidamente a una fase di espansione di quel genere. Anche perché, appunto, noi dobbiamo smaltire il debito, abbiamo una popolazione più vecchia e siamo un po' più depressi. Vuol dire che probabilmente noi dobbiamo rivedere, come dire, il modello espansivo e non essere contro la crescita, ci mancherebbe altro, la crescita è un elemento connaturato alla natura umana, come dire, e io sono contro tutti i discorsi della decrescita, ma dobbiamo anch'io probabilmente crescere in maniera più qualitativa, cioè centrare probabilmente tipi di beni che sono meno focalizzati sul singolo individuo, la sua mobilità, e invece valorizzino le relazioni, i rapporti, la qualità ambientale, la qualità delle nostre città. Però, cioè, quando noi diciamo che ci siamo ritrovati dopo 25 anni, dopo 20 anni, infelici, indebitati e invecchiati, cioè, nell'indebitamento e anche, se vogliamo, nell'infelicità, c'è una componente che ricorda un po' alcune fasi della vita, cioè di solito chi non ha il senso del denaro, lo dico con un'estrema generalizzazione, è il giovane. Quando tu metti su famiglia tendi ad avere anche una certa visione del futuro, prudenza, attenzione. Chi invece, insomma, col primo lavoro spende i soldi o se ce l'ha, e tende ad avere un atteggiamento forse più adolescenziale, no? Sì, questo è esattamente un'espressione che si può usare. Credo che noi questi 25 anni sono stati la prima volta nella storia in cui il 90% della popolazione si è trovata libera, era libera sul piano economico, sul piano politico, sul piano culturale, e la prima cosa che ci è venuta in mente è di pensare che la libertà volesse dire fare ciascuno quello che si voleva, diciamo così, esattamente un po' come degli adolescenti, no? Che quando se ne vanno fuori di casa e si trovano a dover decidere per conto loro, hanno un atteggiamento esplorativo e, come dire, curioso nei confronti della vita. Ecco, come Erikson, che è un grande psicologo sociale, ci insegna, dopo la fase adolescenziale viene la fase della maturità, e le nostre società sono società mature, in cui lui dice, dopo la fase esplorativa provocatorio, diciamo così, c'è la fase, lui chiama, della generatività, cioè una libertà che impara a spendersi per qualche cosa di buono, di bello, di giusto, diciamo così, una generatività, una libertà che si prende cura di ciò che mette al mondo. È un cambiamento culturale, questi 25 anni hanno due radici culturali che sono il 68 e il neoliberismo. Io credo che il nuovo modello di sviluppo si produrrà se riusciamo a dire diversamente l'idea di libertà. Allora, una nuova idea di libertà. Mi piace molto l'esempio dell'adolescente, insomma, che appunto quando prende le chiavi di casa per la prima volta, esce di casa, vita sregolata, bello anche, ma chi è che non si ricorda con un periodo bello, quel periodo? Però poi, cioè, la libertà dell'adulto è la libertà di scegliere se farsi una famiglia, di investire sul futuro, di costruirsi una carriera, di fare dei piani di lungo termine, non la libertà di fare le 6 di mattina, o non solo quella, cioè. Chi è che deve spiegarci, professor Magatti, cosa e dove andiamo, come si fa a essere adulti? Perché uno quando nella vita lo fa ha dei riferimenti ai genitori, agli amici più grandi, ai fratelli, che ti dicono guarda che adesso a questa età devi cambiare modo di vita. A noi come collettività, dopo 20 anni di adolescenza bella, ricca, spensierata, chi è che ce lo spiega? Chi ci dà l'esempio? Perché la politica si è autosospesa, quindi... Ma guardi, così come l'adolescente in genere non è disposto ad ascoltare nessuno, così noi possiamo imparare solo se abbiamo il coraggio di guardare quello che ci sta succedendo. L'unica maestra che possiamo riconoscere è la storia e le sue lezioni. Appunto, se riconosciamo che la crisi non è congiunturale, che dietro c'è una questione che riguarda, come dire, il modello di sviluppo, se proviamo a vedere le contraddizioni che si sono prodotte un po' per volta, io credo molto, come dire, attraverso la mobilitazione diffusa produrrà un modello di sviluppo. La politica può accompagnare questo processo, non lo può inventare. Può dare... Ma modelli positivi ne abbiamo in questo momento? Perché è chiaro che tu quando vuoi diventare adulto fai riferimento a un modello che ritieni essere positivo, non vai a prenderti l'amico scavezzacollo a quel punto, no? Prendi il fratello serio, il genitore... No. La nostra società è piena di generativi, come li chiamo, cioè, io. Di modelli positivi. Di modelli positivi. Ad esempio, noi abbiamo con un gruppo di colleghi abbiamo già avviato questa narrazione di esempi positivi. Abbiamo creato un sito che è www.generatività.it in cui raccogliamo storie di imprenditori, perché l'impresa è sicuramente un luogo della libertà contemporanea, ma anche associazioni, terzo settore e poi politiche che riflettono quel modello di cui parlavamo prima, cioè di persone, uomini, donne, gruppi, diciamo così, che si appassionano e che amano quello che fanno banalmente e che in questo modo, come dire, non creano problemi ma risolvono problemi. Che è una differenza non da poco. Professor Magatti, adesso dopo il traffico invece vorrei capire la parte construence, come dite voi sociologi, cioè abbiamo spiegato, le ci ha raccontato da dove veniamo, quali sono i modelli, l'ho appena ricordato, andiamo ancora più nel dettaglio su questo, però il traffico prima di tutto, 349-238-6666 per i vostri sms, vorrei anche capire come si rimette insieme, come si rimette a unità un paese che si è disunito in questi anni, si è disunito in tanti modi, nord contro sud, lavoratori autonomi contro pubblico impiego e berlusconiani contro gli anti-berlusconiani, come si fa a tornare assieme dopo il traffico? 18-17 minuti, ultima parte di Focus Economia, vedo che a molti piace anche questo approccio di oggi, poi torneremo come sempre, facciamo l'approccio classico, però più sociologico, più storico, un po' più di respiro, me lo permettete, e non solo di cronaca quotidiana. Allora, torniamo a parlare con Mauro Magatti. Abbiamo detto che siamo sostanzialmente più indebitati dopo 20 anni, più infelici perché la solitudine poi si sente, e anche più invecchiati, poi ci sono gli ascoltatori che aggiungono anche più inca. e alcuni scrivono dopo la manovra saremo anche più incu, ma insomma ragazzi andiamo, restiamo seri. Allora, queste le tre I, al di là delle tre I di Berlusconi, queste sono le tre I con cui ci confrontiamo adesso. Abbiamo necessità di cambiare, ma se ho ben capito anche di trovare dei valori condivisi. Allora, valori condivisi, devi avere qualcuno come riferimento, professor Mauro Magatti, che ricordo è preside della Facoltà di Sociologia alla Cattolica di Milano. Lei diceva, ci sono degli esempi positivi, sono gli imprenditori, il terzo settore, chi ha un'attività densa di valori che poi li dà sul territorio. Ma come si fa a condividere questi valori? Perché non basta dire che tu sei portatore di valori. Lei prima parlava di narrazione, al di là dell'uso che ne fa Vendola, lo dico con simpatia, di narrazione, ma che cos'è sta narrazione? Ma l'origine della narrazione è la parola che in greco si dice logos, e logos è il fondamento ultimo del legare. Senza un discorso condiviso non sta insieme nulla, diciamo così, no? E questi 25 anni hanno avuto un discorso condiviso, quello dell'espansione. Crescete, arricchitevi. Sì. Sì. Questo era alla fine, come dire, il discorso condiviso che permetteva poi a tutti noi anche il federalismo a livello politico, cioè non c'era nessun partito praticamente che fosse contrario a un'idea federale. Assolutamente un'idea... no, cioè, la politica infatti è stata una politica, si vincevano le elezioni perché si andava davanti all'opinione pubblica e in qualche modo si diceva che si era quelli che si sarebbe il partito che avrebbe realizzato una maggiore crescita. Ecco, oggi se tu vai alle elezioni e racconti questo non ti crede nessuno, perché semplicemente le condizioni della crescita, di quella crescita, non ci sono più. Io, per fare un paragone storico non lontanissimo nel tempo, credo che siamo come all'inizio degli anni 70. Là si ruppe il modello che era nato nel 45, si cominciò a inclinarsi nel 68 e nel 73. Ci abbiamo impiegato 10 anni e poi siamo partiti con il modello neoliberista. Ecco, abbiamo davanti 3, 4, 5 anni di faticosa ricerca di un nuovo modello. Nessuno ha la soluzione in tasca, bisogna gestire la contingenza ma avere lo sguardo lungo. Su questo però mi faccia capire una cosa, lei dice valori condivisi, vabbè, siamo arrivati al punto finale, cioè ai valori condivisi. Lei ritiene che in questi 20 anni, assieme a avere avuto tutto un atteggiamento espansivo, adolescenziale anche nel senso buono del termine, quindi fresco, c'è stata anche, questo è riferito molto all'Italia più che agli altri paesi, una frammentazione, cioè diciamo il federalismo era nato come nord contro sud. Poi abbiamo visto le parti IVA accusare i lavoratori dipendenti di essere dei fannulloni e i lavoratori dipendenti accusare le parti IVA di essere degli evasori fiscali, i berlusconiani contro gli anti-berlusconiani. Cioè a me sembra che oltre a un ventennio da adolescenti in cui hai questa gioia di vivere, se chiamiamola così, c'è stato anche un ventennio in cui ci siamo molto divisi, cioè ognuno andava un po' per i fatti suoi, tendenzialmente anche... definendosi in contrapposizione a qualcosa. Io non sono una paritaria, non sono un lavoratore dipendente, non sono uno del sud, non sono un leghista, non sono un comunista, non sono un berlusconiano. Possiamo andare avanti così per ore. Sì, questo perché l'Italia ha partecipato in realtà marginalmente al processo di espansione. Noi sappiamo che sono già 10 anni che non cresciamo più e siamo cresciuti poco anche negli anni 90. E avendo partecipato poco al processo di espansione, semplicemente perché non abbiamo capito che globalizzazione ha a che fare con un elevamento dei livelli e dei linguaggi della tecnica e dell'estetica, ci siamo litigati di più rispetto ad altri contesti. Questo tra l'altro è un'eredità che noi ci portiamo dietro. Ma i valori condivisi, solo per tornare su questo tema, è la grande sfida delle democrazie che si confrontano con una cosa che è la Cina, che è una realtà autocratica. Le democrazie sono in grado di conservare e promuovere la libertà senza che questa libertà sia semplicemente appunto dissipativa e distruttiva. E io credo che, come Tocqueville, il grande teorico della democrazia, ci insegnava, bisogna passare da un modello che è centrato sullo Stato a un modello che è centrato sui territori, sui corpi intermedi sulle imprese, perché questi sono i luoghi di una democrazia, per citare un collega francese, contributiva, che è quella di cui abbiamo bisogno. Valori condivisi, i portatori di valori, li abbiamo individuati in qualche modo, ma valori appunto condivisi. La Cina, se posso sintetizzare in maniera estrema il suo ragionamento, professor Magatti, l'affronti non con le dimensioni, perché sei Davide contro Golia, ma l'affronti se stai unito, almeno c'è un po' di massa, no? Critica la fai, se continui a spaccarti tra nord e sud, est, ovest, partite IVA, lavoratori, non vai da nessuna parte. Non abbiamo più tempo, però mi piacerebbe un giorno affrontare il tema, e me l'ha fatto venire in mente mentre si parlava, un tema sollevato la settimana scorsa da Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, l'abbiamo avuto anche ospite, quando ha detto: attenzione, gli studi delle neuroscienze dimostrano che una lunga crisi, una lunga recessione, porta inesorabilmente a una lunga depressione, ma non perché tu sia più povero, ma perché non vedi mai cosa c'è dopo il tunnel, non vedi mai la fine del tunnel, non hai un obiettivo. L'imprenditore, professor Magatti, non è solo uno che investe, fa ricerca e sviluppo, contratta con i dipendenti il livello salariale e ha a che fare con i contratti nazionali o aziendali, è uno spirito animale. Ora, la parte spirito mi interessa, lo spirito depresso è un animale che non va a caccia. Sì, allora, però c'è da domandare, questo è chiarissimo, bisogna domandarsi in società appunto evolute, avanzate, mature come la nostra, questo spirito animale imprenditoriale dove si può esprimere, rispetto a quali obiettivi, rispetto a quali direttrici, rispetto a quali scopi. Questa è una questione propriamente culturale, mi spiego, possiamo ritenere che l'impresa oggi, un imprenditore possa nascere solo col gusto di far soldi? Io credo che un sano profitto, che è la misura della propria efficienza, della propria capacità, oggi possa manifestarsi laddove l'imprenditore ci mette dentro nella sua azienda anche qualche cosa di più, il gusto di fare un prodotto che sta sui mercati mondiali, il gusto di fare qualche cosa di unico, il gusto di realizzare un prodotto che si costruisce in un'azienda in cui le persone lavorano volentieri. E nell'archivio della generatività di cui parlavo prima si racconta con chiarezza questo tipo di nuovo imprenditore. Per intenderci, non è una visione cattolica, prendetevi l'Harvard Business Review, il numero in edicola nel mese di ottobre, e la copertina recita che l'imprenditore del futuro e l'impresa del futuro sarà un'impresa che è capace di appunto investire sul senso e non solo investire sui soldi. Fermo restando che poi non c'è niente di male, anche se fosse un'idea cattolica, tra l'altro l'archivio della generatività italiana è finanziato dall'Istituto Luigi Sturzo, uno che quanto a visione, no? Qualcosa aveva. Sì, vedo, io ricordo ancora quando parliamo della luce in fondo al tunnel, quello che mi disse scrisse un ascoltatore qualche anno fa, sì, ho capito, c'è una luce in fondo al tunnel, e quella del treno che si sta arrivando contro. Allegria. Ce la faremo secondo lei? No, ce la faremo senz'altro, perché semplicemente perché l'Italia poi è ricca di spirito, e questa, essendo una crisi spirituale, credo che vedrà l'Italia, come dire, poi riorganizzarsi e ritrovare un proprio destino comune. E allora andateci, c'è anche l'archivio della generatività italiana, ossia di chi ha, diciamo, storie esemplari di aziende o realtà che possono essere utilizzate come modello. Ripeto, non è in base al profitto, all'utile per azione, al ROE, all'EBITDA e quant'altro, è su un altro modello. Grazie a Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano. Grazie a voi, arrivederci. E siamo veramente in conclusione. Alcuni di voi dicono: ma insomma, che onanismo mentale. No, abbiamo cercato di non parlare sempre della crisi nel solito modo. Tanto torniamo lunedì a raccontarvela giorno per giorno. Tornerà il programma, che è in diretta anche l'8 e il 9 di dicembre. Un ascoltatore invece sintetizza molto bene: nell'adolescenza ti dividi, sei punk, rock, paninaro, così, e come ci siamo divisi noi. E quando cresci che devi trovare una forma di unità o di comunità attraverso appunto un racconto condiviso, un futuro condiviso. A mio avviso solo così se ne esce veramente, ma è una mia modestissima idea. Per uscirne nel breve conta Angela Merkel la BCE, per uscire nel lungo occorre contare tutti con visioni il più possibile condivise. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto. Un ringraziamento anche questa settimana a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione. Focus Economia torna lunedì dalle 17. Intanto, buon fine settimana. Radio 24. La passione si sente.